Mario e Vittorio Cecchigori presentano una produzione Melampo cinematografica. La vita è bella, regia di Roberto Benigni. Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglie e di felicità. Arezzo, Italy, 1939. Una balilla scoperta e carica di bagagli fila liscia sotto un bel cielo cristallino tra le placide colline della Toscana. Alla guida un giovane dall'aria robusta ma dallo sguardo gioviale. Accanto l'amico Guido. Eccomi, son pronto! Sono già partiti i treni, si sono rotti i freni e non resisto più. Vai, dolce Bacco, portami! Oh, si sono rotti i freni! Si sono rotti i freni! Ho capito! No, si sono rotti i freni, vai da freno! Oh, frena! Non stai recitando la poesia! Frena! La balilla accelera sempre di più e in una curva a gomito esce di strada e prende a sobbalzare nel prato tagliando di netto i cespugli. La strada asfaltata si apre in un'ampia curva. L'auto incrocia una staffetta motociclistica ed irrompe con un balzo pericoloso sulla provinciale che conduce ad un borghetto in festa. Sta arrivando il re! Guido urla col braccio alto e teso, un gesto che viene scambiato per il saluto fascista e contraccambiato con gioia. I paesani invadono la strada salutando la balilla che scompare e costringendo la macchina reale che sopravviene e su cui siedono bene in vista Sua Maestà e la Regina ad una brusca frenata. I reali si scambiano uno sguardo di disappunto. Fatti una passeggiata, 10 minuti, eh? Se no arriviamo domattina. Oh, eccola qua, ritrovati il chiodo di prima, allora. Guido e Ferruccio sono sdraiati sotto la macchina cercando di riparare il guasto. Vabbè, allora, va, silenzio. Non vogliamo mezzanotte. Lo vuoi più il chiodo di prima? No, lo voglio. Non lo vuoi? No, voglio restarci 5 minuti da solo. Allora ti lascio solo, eh. Ecco, bravo. Vabbè. Oh. Caldo. Senti, io! Oh. Se trovo il chiodo, te lo butto? No, lasciami 10 minuti solo. 10 minuti. Mi vado a lavare le mani! Bravo! Là vicino c'è un vecchio casolare circondato da orti e stalle dove Guido incontra una bimba che sta mungendo una mucca. Oila! Bella bambina! Come va? Eh? Che stai facendo? Oh, guarda quanta bella roba! Chi ce l'ha messa? La mamma? No, la padroncina. La padroncina? Ma qua, ma che è un mercato? Ma è una cosa bellissima! Ci può comprare? Quanto costa? E quanti anni hai? Dov'è la mamma? T'ho fatto troppe domande. Come ti chiami? Eleonora. Molto piacere, Principe Guido. Principe? Sono un principe, io non lo sapevi. Qui è tutto mio, sai, oh! Qui è tutto mio, qui principe è il principato del principe. Questo posto lo chiamerò Addis Abeba. Cambio tutto io qua, eh. Via le mucche, tutti i cammelli. Via le galline, tutti struzzi. Struzzi e cammelli. E anche qualche ippopotamo, Eleonora. Ciao, vado via perché c'ho l'appuntamento con la principessa. Quando? Ora. Dalla piccionaia, una ragazza cade giù tra le braccia di Guido sulla paglia. Buongiorno, principessa. Oddio, che spavento, stavo per ammazzarmi. Le ho fatto male. Ma è stato meglio in vita mia. Ma lei esce sempre di casa così? Volevo bruciare quel nido di vespe, ma mi hanno punto. Meno male che c'era lei. La punta alla vespa? Lì? Con permesso. Ferma, principessa. Che... Guido si getta con la bocca sul ginocchio della donna. Succhia e sputa. Bisogna levarlo. Si stenda, ci vorrà almeno una mezz'oretta. Ecco, è passato, grazie, grazie. Sì? L'hanno punta da qualche altra parte? No, grazie. Ma che posto è questo? Ma è un posto bellissimo, eh? Volano i piccioni, le donne cadono dal cielo, io mi stabilisco qua. È tutto suo, vuole fare tutti i cammelli e struzzi, è un principe. Esatto, Principe Guido, al suo servizio. Si piega in un inchino galante. Ora vengo! Va bene, allora arrivederci, eh? Come posso ringraziarla? Niente, niente. Se proprio mi vuole ringraziare, mi prenderei qualche uovo che faccia una bella frittata al mio scudiero stasera, posso? Prenda tutto quello che vuole, tutto suo. Grazie, ne prendo 6, va bene, faccio una bella frittata. Arrivederci, Eleonora. I miei omaggi, principessa. Arrivederci. Eccomi, nuvolari! Stasera frittata! La donna e la bimba si guardano e sorridono. Guido sale sull'auto che si allontana. È sera. Ma dov'è questa casa? Ecco, gira, a sinistra, sì, siamo quasi arrivati. Ecco, fai la ciuffata, a dire. Ma tuo zio dorme con noi? Ma scherzi, mio zio, lui vive in albergo da più di 30 anni, gran metro. La casa ce la presta, lui l'usa come un magazzino, ci mette di tutto. Ecco, ecco, siamo arrivati, ralletta, oh, piano, piano. Lo vedi? Ecco, quella è Robin Hood, il cavallo dello zio. Quella è il calesso dello zio e quella è la casa dello zio. E dentro c'è lo zio. Andiamo, andiamo. Zio, eccoci! Tre giovinastri escono a tutta velocità dalla casa dello zio di Guido, scappando. Guido e Ferruccio si precipitano in casa. Guido aiuta lo zio ad alzarsi. Barbari. Ma che è successo? Ma che è? Niente, Barbari. Ma perché non hai gridato? È in silenzio il grido più forte. Ma venite qua, è il tuo amico poeta, vero? Sì, mi chiamo Ferruccio, faccio anche il tappezziere. Ah, bravo, bravo, ecco, qui dovete adattarvi, un vecchio magazzino. Qui ci sono tutte cianfusaglie, una vecchia passione. Essa stessa una cianfusaglia. Madonna, ma a che serve tutta questa roba? Qui potete rimanere quanto volete. Fare il cameriere non è facile, te lo dico subito. Quello in letto. La leggenda vuole che ci abbia dormito Garibaldi. Nulla è più necessario del superfluo. Ma, barbari. Il municipio a via Sestani, a destra, dopo il colonnato, ci puoi andare domattina. Questo è il bagno, corredato anche della opportuna invenzione di Monsevide. E qui ci sono alcuni libri. C'è anche La vita del Petrarca, scritta da Lorenzo Paolino. La cucina sta di là. E qui c'è un velocipede, volgarmente detta bicicletta, che bisogna solo gonfiare. È tardi, devo tornare in albergo. La chiave è una sola, non la perdete, è attaccata alla porta. Che piacere vederti. Eccomi, Robin Hood! Che zio! Una bella giornata. Guido e Ferruccio passeggiano per la città mattutina. Ma che roba, Ferruccio! Ma te l'avevo detto, eh! Qui siamo in città, qui puoi fare quello che ti pare. Siamo proprio liberi. Ti fatti fare una cosa, la fai. Guarda che bellezza. Puoi sfogarti, puoi urlare, urli, no? Fermo, che stai facendo? Siamo in città, oh! Vieni a fare quello che ti pare quel paese. Vieni a fare. Ma come che ho fatto? 3 ore e un mio forse. Sopraggiunge un passante. Via! La chiave! Oh! La chiave! Un negozio di tappezzeria. Due bambini gemelli giocano su un divano. Faresti più contenti su Mappo. E tu faresti più soldi di lui. Bravo, Reste. Glielo dico sempre anch'io. Devi mettere la testa a posto, Ferruccio. Oh, guarda che bel cappello. Posso? Come sta, Ferruccio? Bene. Bene, oh, come sta? Bene, però questo è il mio. E quando comincio io a lavorare? Tu sei già in ritardo, subito. Prendi quella poltrona e portala di là in laboratorio. Quella lì? Quella, quella. Guido scambia i cappelli. Bene, allora io vado in comune, la saluto, arrivederci, eh. Arrivederci e fate i bravi ragazzi. Perché questi sono tempi brutti. Il tappezziere riscambia i capelli. Sono brutti, eh? Brutti. Ma perché lei come la pensa politicamente? Benito! Ma dopo, state buoni! Come diceva? No, dicevo come va, insomma. Allora io la saluto. Beh, sì. Ferruccio entra con la poltrona. Guido riscambia velocemente i capelli. Manca, arrivederci! C'è riuscito, ma ripensi il mio cappello, ma tanto lo ritrovo. Benito, e si tolto sbelli! Ufficio del comune. Vorrei fare tutto l'iter di legge per aprire una libreria di legge. Ci vuole molto tempo? Anni. Allora è meglio aprire la pratica subito, faccia. Intanto lei deve fare la domanda che deve firmare il caposezione. Guido si alza. Lenta, che miseria. Stavo per fare una frittata, c'ho le uova da ieri, me le sono dimenticate. Meno male non ci sono tutti. Allora scriva, il sottoscritto, reduce Guido, fa domanda per aprire la libreria. Non può firmare subito. Ecco, ecco, ecco. Che succede? Senta, ci vorrebbe una firma sua per aprire una libreria mia. Signorina, che succede? Dottor Rodolfo, io gliel'ho detto, ma lui ha insistito. Una firma, Rodolfo. No, guardi, non posso. Fra l'ora arriva il mio sostituto, si rivolge a lui. Dottor Rodolfo, basta la firma, se no. Alle una qui si chiude, ha capito? Vabbè, bello, davvero chiedo. Faccia reclamo. Accidente di antipatico. Ma qui per fare una firma, per aprire la brava, non dico mica di... Ma qui bastava facesse così, ora mi tocca aspettare il sostituto che... Guido si appoggia ad una finestra aperta e fa cadere di sotto un vaso di fiori. Madonna, che botto! E va a cadere dritto dritto sulla testa del caposezione. Si è fatto male! L'aiuto io! Guido posa le uova nel cappello di Rodolfo. Non mi tocchi, faccio da solo. La libreria, lei se la sogna, caro signore. Rodolfo mette il cappello. No, ci sono le uova! Guido scappa via impossessandosi della bicicletta di un passante. Arriva una scolaresca, ma finisce addosso alla loro maestrina. Buongiorno, principessa. Chissà se un giorno riusciremo a incontrarci in piedi, eh? Beh, mi scusi, ma ora devo proprio scappare, eh? Arrivederla. Arrivederla, principessa. Dora, divertita, lo osserva allontanarsi. Guido attraversa la grande e lussuosa hall del Grand Hotel, dove suo zio lo attende, seduto ad un tavolo. Pollo. Facile. Il pollo si serve intero, con il dorso sul piatto. Me lo taglia? Prego. Prima cosa tengo il pollo fermo con la lama del coltello infilzata sotto l'ala e stacco la coscia. Poi incido la carne lungo la carena dello sterno, via ali e petto, via la pelle. Aragosta. Facilissimo, zio. Allora, aragosta. Aragosta, infilzo l'ala sotto la coscia, via la coscia, stacco l'aragosta, si infilza, l'aragosta è un crostaceo, l'aragosta è un crostaceo, via la crosta del crostaceo, via la crosta e via le antenne, e che mangiamo, le antenne dell'aragosta, via le antenne, via l'aragosta, a questo punto non c'è più niente, l'aragosta l'abbiamo finita, però abbiamo un pollo buonissimo, vuole il pollo? L'aragosta non me la ricordo, signora. L'aragosta si serve così come esce dalla cucina, non bisogna toccarla. È troppo facile, per questo non me la ricordavo, perché le cose facili non può saltare così. Allora, zio, apparecchiamento, si leva il piatto sporco, si mette quello pulito, mai fare il contrario, un errore grossissimo. E voglio bere, prego, sono qua apposta, per il vino c'è il sommelier, ti ha chiesto tutto a me, giusto? Bicchieri, classico, coppa, coppetta, bricco, bricconcello, toro di ponente, sestriere, valiut, ma solo per ricevimenti religiosi. Buonasera, eminenza, come sta? Comportamento, l'attesa, fermo così. Cameriere, sì, ta, ta, ta, ritorno, ta, comportamento d'attesa. Cameriere, sì, ta, ta, tu, ritorno, pum. Cameriere, sì, ta, ta, ritorno, tu, pum. Cameriere, sì, ta, ta, ritorno, tu, vabbè, ma che chiamano tutti i mezzi? Ci saranno altri camerieri, no? Perché sono solo. Cioè no. Il inchino, inchino facilissimo. Allora, inchino, ci si inchina giù, si va giù, così, di 45, come una bottiglia di champagne, di 45 anche 50, 55? Abbassa 90, la schiena piegandosi letteralmente in due, mentre lo zio si alza. Così. Guarda i girasoli, si inchinano al sole, ma se ne vedi qualcuno che è inchinato un po' troppo, significa che è morto. Tu stai servendo, però non sei un servo. Servire è l'arte suprema, Dio è il primo servitore. Dio serve gli uomini, ma non è servo degli uomini. Qui zio, un bottone non c'era, eh? Il bottone qua non ci vuole, stupidotto! Ma la macchina e il babbo gliela devo riportare, si tiene. Vabbè, hai buttato il compisetto, dai. Ah no, gliela devo riportare presto. Lo sai perché? Perché? Casa dello zio, è notte, i due amici sono a letto. Ferruccio! Ferruccio! Che c'è, che ore sono? Ma come che ore sono? Ma che dormivi? Certo che dormivo. Ma mi hai fatto la domanda un secondo fa, ti sei voltato, pum, dormivo, ma come hai fatto? Schopenhauer. Schopenhauer che? Schopenhauer dice che con la volontà si può fare tutto. Io sono ciò che voglio. E in questo momento voglio essere uno che dorme e mi stavo dicendo dormo, dormo, dormo, mi sono addormentato. Beh, poi è semplice, eh? Vai a provare. Dormo, dormo. Dormo, dormo, dormo. Ma non muovere le mani, non sei un prestigiatore, è una cosa del pensiero, seria. E poi ci vuole tempo, dai, ne riparliamo domani, buonanotte. Bene. Guido bene. Muove le dita sul volto dell'amico addormentato. Svegliati, svegliati, svegliati, svegliati, svegliati, svegliati. Che c'è? Ma che fai? Oh, funziona in pieno. Funziona che? Schopenhauer. Ma lo sai che ho detto in questo momento, prima di svegliarsi, svegliati, ta, ti sei svegliato il colpo. Ma guarda, è incredibile sta teoria, ma come avviene tutto questo? Avviene che mi urlavi svegliati negli orecchi, per questo mi sono svegliato. Beh, lo devo dire più piano allora. Non lo devi dire per niente. Ah, per niente. Una cosa profonda, del pensiero. Guido riprende a muovere le dita davanti a sé, soffiando appena qualcosa dalle labbra. Che c'è? Eh? Che c'è? No, fretta, senza dirlo. Senza dirlo, stavo dicendo alla lampada, spegniti, mi riesci a dormire con la luce accesa. Vai lì e la spegni, no? Lasci te. Vabbè, ho capito, va. Ferruccio si alza e spegne la lampada. Oh, funziona! La città è allegra e assolata. Maria! Mariale! Oh, oh no! Le mattine sta a buttare la chiave. Manca poco figli al testo. Guido, guarda là! Che? C'è la Guicciardini! Chi? La Guicciardini editrice! Ah, l'editrice! Se mi pubblicasse lei sarebbe un sogno. Beh, c'è un'occasione, la Guicciardini è lì. Vai a prendere le poesie e la blocco io. Vai, vai. La Guicciardini editrice. Oh, io vado, Bloccamela! Una donna di 60 anni elegante che prende un caffè al bar. Signora Guicciardini? Sì. Buongiorno. Prego. Mi chiamo Guido Repice, sono arrivato da poco in città perché vorrei aprire una libreria. Ah, quando? Tempo di mettere insieme le carte. Ecco, sono venuto con un mio amico, Ferruccio Papini, un giovane poeta molto poetico, contemporaneo. Ha già pubblicato qualche cosa? Niente, no. Non amo che le rose che non colsi. Sopraggiunge il tappezziere. E allora, signora, sì? Io vorrei tanto che lo conoscesse. È andato di corsa a prendere i manoscritti. Senza batter ciglio, si riprende il suo cappello dalla testa di Guido e lo sostituisce con quello che già era di Guido. Ecco, dicevo, io vorrei tanto che lei lo conoscesse. È proprio... Eccolo, eccolo. Arriva di corsa Ferruccio, purtroppo a mani vuote. Si ferma accanto ai due appoggiandosi ad una colonna. Ce l'hai che? Ah! Ma guarda, mi stavo dicendo che i manoscritti li deve ancora mettere in ordine. Glieli faremo bene, La ringrazio, arrivederci. Prego. Sei pubblicato, Ferruccio Papini, tramonto all'alba, Guicciardini editore. E il libro te lo vedo io, Va bene. Tu, guarda là! Quella è la maestrina. Quale? La maestrina, te l'ho parlato, guarda com'è bella, l'ho anche sognata stanotte. Bella, vedi, la faccio vedere, vai. Fermo! Che c'è? Fermo! Non ti muovere, non ti muovere, Ferruccio! Quello lì con la macchina, lo vedi? Quello è lo scemo delle ova, l'ufficiale comunale. Guido si nasconde dietro a Ferruccio. Che fai? E sta lì, sta parlando! Che dice? E che ne so? Come che ne so? Che fa? Saluta, ecco, sta andando via! Fermo! C'è la macchina uguale alla mia! E che me ne interessa? Ecco! Fermo, non ti muovere, se mi vede mamma, se vuole! Fermo, Ferruccio, fermo, aspetta, fermo! Guido sbuca come un folletto ridente. Buongiorno, principessa! Oddio! Ma è lei ancora? Ma come fa? Questa è la principessa che mi è caduta dal cielo tra le braccia, eccola. Ah, è lui quello che ti ha succhiato il pungiglione dalla coscia. Sì, noi ci incontriamo sempre così, lei mi appare all'improvviso. Beh, potremmo incontrarci organizzando, stasera alle 8? No, è più bello così. Andiamo, Dora, fai tardi a scuola. Spero di incontrarla ancora all'improvviso. Arrivederci. Arrivederla, principessa, arrivederla. Oh, hai visto? Sarà bella, Le piace quando la fai all'improvviso. Oh, facciamoci io defalarci, gli ci dico fare all'improvviso dalla spiaggia. Ma dai, sei matto. Non ce la faccio più. Ma come, l'ho fatta pubblicata dalla Guicciardini, non mi fai questo piacere. Andiamo. Guido lo tira per il braccio. Imboccano di corsa la stradina che precede il palazzo lungo il quale si stanno allontanando Dora e Elena. Porca miseria, siamo arrivati troppo tardi, sono già passati. Te l'avevo detto di correre più forte, no? Andiamo, facciamoci vicino di questa strada. Sei matto. Dai, non infatti. Dai, andiamo. Scatta come una furia tirandosi dietro l'amico barcollante. Terribile. Piacerebbe molto a tua madre. Superato l'angolo, vedono Ferruccio a terra e Guido in bilico sulle gambe. Buongiorno, principessa. Buongiorno. Che sciocchi. Grand Hotel, è notte fonda. Un solo cliente al ristorante. Non ci credo. L'oscurità. Sei un genio. Più è grande e meno si vede. Soluzione? L'oscurità. Bellissimo. L'ha inventato lei questo indovinello, dottore? No, ma tu l'hai risolto in 5 minuti e io in 8 giorni. l'oscurità. Prego, salmone, insalata e un bicchiere di vino bianco. Allora fai attenzione, Guido. Se lei permette, tocca a me. Me lo faceva il mio babbo da piccino. Biancaneve in mezzo ai nani. Risolvi questo enigma, cervellone, nel tempo che ti dà la soluzione. Stevici Barenzimzwergen? Sembra raffinato. Lo voglio risolvere subito. No, prima mangi, sennò si raffredda. Non ce la faccio, è troppo tardi. Ma come? Insalata, salmone, vino bianco, è leggero. Biancaneve in mezzo ai nani. Il portiere di notte arriva alle spalle di Guido. Guido? Sì? È chiusa la cucina? Non c'è più nessuno, niente, perché? È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare. È chiusa la cucina. Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia. È aperta la cucina. Si accomodi. È un ispettore della pubblica istruzione. Prego. Guido gli si fa incontro e gli indica un tavolino. Poi torna rapidamente dal tedesco. Dottore, lei non mangia proprio niente? No, no. I nani sono sette. Buonasera. Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari è una cosa fredda. Quello che trovate. Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei. Qualcosa di leggero. Beh, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto, intriso, impanato, altrimenti pesce. Pesce, pesce. Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato, intriso, unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro. Un salmone, molto gentile. Contorno? C'è anche il contorno? Certamente, abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamusa, o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente. Un'insalatina leggera? Mi dispiace perché i funghi fritti fritti fritti erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco. Perfetto, più presto che può, per favore. Faccio il possibile. Guido va dal tedesco, prende il vassoio che sta sul suo tavolo e lo posa davanti all'ispettore, il quale resta a bocca aperta. Prego. Il capitano intanto si è alzato e sta andando verso l'uscita. Risolvi nel tempo che ti dà la soluzione. Giusto? Giusto. Biancaneve in mezzo ai nani. Buonanotte, dottore. Buonanotte, genio. Biancaneve. Ha detto Biancaneve. Che cos'è, ubriaco? È un indovinello, fra sette minuti. Fra sette minuti? No, fra sette minuti è la soluzione, no? Biancaneve in mezzo ai nani. I nani sono sette, sono piccoli, sono minuti. Biancaneve che sta in mezzo a loro, dove sta? Fra sette minuti. No, il dottor Lessing è un medico, è una persona serissima, però è fissato per gli indovinelli. Proprio sono sicuro che non ci dorme la notte. Ho capito. Scusate, la scuola Francesco Petrarca. La scuola elementare è una bellissima scuola, ci insegna una mia amica, è qui vicino, perché? Bene, possiamo dormire una mezz'ora in più. Ma perché? Lei domani mattina deve andare lì a scuola? Sì, mi aspettano alle 8:30. Una grande aula piena di ragazzini azzinati, schierati intorno alla cattedra la direttrice didattica ed alcuni insegnanti. Un po' d'attenzione, tra poco arriverà l'ispettore da Roma. Fatemi fare bella figura, Ascoltate quello che dice attentamente e in silenzio. Dirà delle cose molto importanti sulla nostra bellissima patria. Ma chi ha messo Roberto in prima fila? Roberto, vai tu. Dove? In ultima fila, vai! Cosimo, vieni qui al suo posto. Signora direttrice, è arrivato l'ispettore. Come? È già arrivato. Ma è un principe. Roberto, siediti! In piedi! Dora resta sbalordita. Buongiorno, principessa. Buongiorno, signor ispettore. Io sono la direttrice. E questi sono alcuni insegnanti. Bene. Quindi, da quanto anni insegna in questo circondario didattico? 16. Lei è in regola col programma didattico in corso ministeriale quest'anno? Sì. Ha letto la circolare che ho mandato io sul liceo infantile? Certo. Che fa domenica? No, dico domenica, no, è la festa della Madonna e Santa Maria, che fa? Va da teatro. Ah. A vedere chi è? Offenbach. Ah, già, è vero, c'è Offenbach. Bene. E insomma... bene, benissimo, allora... Io la ringrazio, arrivederci, ero venuto appunto per... Lo sappiamo. Il signor ispettore, come sapete, è venuto da Roma per parlarci del manifesto della razza, firmato dai più illuminati scienziati italiani. Egli, che noi ne siamo onorati, ci dimostrerà che la nostra razza è una razza superiore, la migliore di tutte. Seduti, bambini. Prego, ispettore. La nostra razza, vero? È superiore. Certo. Grazie. La nostra razza è superiore. Appunto, sono venuto da Roma, testé, ora, per venire a dirvi a ciò che voi sappiate, bambini, che la nostra razza è superiore. Sono stato, appunto, scelto io dagli scienziati razzisti italiani a ciò che dimostrarvi quanto la nostra razza sia superiore. Perché, bambini, hanno scelto me? Balza sopra la cattedra. C'è bisogno di dirlo. E si mostra in tutta la sua bellezza. Dove lo trovate uno più bello di me? Dove lo trovate uno più bello di me? Giustamente si è fatto il silenzio. Voi avete davanti un'originale razza superiore, ariana purissima. Bambini, partiamo da una cosa che uno magari dice che vuoi che sia, no? L'orecchio. Guardate qua, guardate la perfezione di questo orecchio. Padiglione auricolare sinistro con campanula pendente finale. Guardate che roba! Cartilagine mobile, pieghevole. Trovatemi due orecchi più belli di questi, io me ne vado, per carità, però me li dovete far vedere. In Francia se le sognano due orecchie così. Guardate qua, guardate qua, guardate qua. Guardate che gamba superiore ariana originale. Pura, un gioiello di gamba, guardate che piegatura, guardate che strantuffata di razza, guardate che roba questa gamba, questa si chiama piegatura di gamba ariana con movimento circolare del piede italico, caviglia etrusca su stinco romano, guardate che resistenza, ce la invidia tutto il mondo, bambini, e voi da grandi avrete una gamba così, ma che dico, una, due, tutte e due le avrete, se si rompe questa... Ci abbiamo quell'altra. Si rompe questa, ci abbiamo quell'altra. Si rompono tutte e due, vabbè, quello è un caso di sfortuna, che c'è. Bambini, le razze esistono. E come? Ma andiamo avanti, vi voglio far vedere un'altra cosa, bambini. Attenzione. Intanto, lungo il corridoio. Ispettore. Da Roma. L'ombelico! Guido è in mutande e canottiera, in piedi sui banchi. L'ombelico, che nodo! Ma non si snoda neanche coi denti! Ci hanno provato gli scienziati razzisti! Niente, non si snoda! Questo è l'ombelico italiano della nostra razza! Guardate che roba! Guardate la muscolatura! Cipite, bicipite, tricipite! Guardate che bellezza! Guardate l'anca! Guardate che movimento! Guardate che roba! Signori! Guido vede l'ispettore e si precipita a raccogliere i vestiti. Con l'appuntamento mi è venuto proprio in mente. Devo fare un'uscita ariana. Io vi saluto. Arrivederci, l'ombelico! Fa per scavalcare la finestra. Principessa, ci vediamo a Venezia. Teatro. È iniziato il quarto atto dei racconti di Hoffman. La scena è Venezia notturna. Sull'acqua argentata dalla luna galleggia una gondola che trasporta Giulietta e Niklaus. Stanno cantando la struggente aria Belle Nuit d'Amour. In un palchetto del primo ordine acceso dai riflettori del palcoscenico si staglia il viso assorto di Dora, tutta compresa nel fascino di quel canto. Dietro di lei, tra gli altri, Elena, vicina ad un ragazzo, e Rodolfo. Solo uno spettatore non guarda il palcoscenico. È Guido, incantato a fissare la bellissima Dora. A destra c'è una donna, la quale, vedendo Guido girato verso di lei, si volta a fissarlo interrogativamente. Guido, allora, indica il proprio orecchio sinistro. Ci sento solo da questo orecchio io. La signora si tranquillizza e riprende a godersi il fascino dell'opera. Dora non si distrae, ha gli occhi lucidi per la commozione. Guido invece guarda lei e sussurra qualcosa. Guarda, principessa. Dai, sono qui. Guardami, principessa, guardami. Dai, guardami. Guido si concentra di più e comincia a muovere tutte e 10 le dita. Voltati, principessa, voltati. E lei, piano piano, si volta. Guido è al settimo cielo. La signora che gli è accanto si gira di nuovo verso di lui e questa volta gli sorride. Guido si ridesta di colpo, raddrizza la testa, calandosi anche lui nell'ipnotica bellezza dell'opera. Lo spettacolo è finito. Fuori il cielo è nero e piove. All'interno del teatro il capitano tedesco... Guido! Guido lo vede e lo saluta. Il capitano gli mostra le 7 dita delle mani. Sento! Grazie. Non sento niente! Il capitano, sempre a segni, gli dà appuntamento all'uscita del teatro. Mi vuole dire fra 7 minuti. Ah, le ha fatto l'indovinata di Biancaneve e Mesenani. Esatto! Non vedo l'ora di darmi la soluzione. Ci prendiamo un gelato al cioccolato? Oh, anche Dora e Rodolfo sono diretti all'uscita. Ah, non te l'avevo detto. Alle 8 in punto dobbiamo stare dal prefetto. Siamo stati invitati a cena. Da chi? Dal prefetto. Dio, pietà, fa che non sia vero. Un'altra cena dal prefetto. Beh, viene anche tua madre. Tombola. Va bene, allora andiamo a cena io e te. Casomai ci passiamo dopo per il caffè dal prefetto, eh? Non ci vengo. Vieni, va bene, ho capito. Mi dico che non andiamo. Stiamo insieme io e te, eh? Oh, buonasera, Rodolfo. Buonasera, signor prefetto. Signorina, allora, ci vediamo più tardi a casa mia, eh? Vi aspetto alle 8. Alle 8 in punto saremo lì. Grazie. Perfetto. Dora sferra un calcio nello stinco a Rodolfo. Ah! Ma dov'è? Guido e Ferruccio incontrano il tappezzino. Buonasera, buonasera. Domattina puntuale, mi raccomando. Sì, sì, signor Nardo. Guido vede il bellissimo cappello del tappezziere e decide immediatamente di riprendere il solito gioco. Bello spettacolo, eh? Bellissimo. Bellissimo, sì. Senta, ma quella tenda l'ha messa lei? Fale quella? L'uomo si gira a guardare e in un attimo Guido fa lo scambio dei cappelli. Si è ripreso il mio cappello. All'ingresso del teatro. Andiamo, dai. Ma non vedi come piove? Per cortesia, vai tu a prendere la macchina. Ma è qui a 2 passi, dai, è qui dietro l'angolo. Va bene, tu aspettami qui. Io mi fermo qui davanti e ti suono. Cazzo, dammi la chiave, dammi la chiave. Non quella di casa, quella della macchina. Dai, dai, dai. Le chiavi della macchina, ma che si mangia? No, dai, dai. Tienilo occupato quello lì, lo scemo delle uova. Tienilo occupato il più possibile. Ci si vede stasera, ciao. Ma nella macchina c'è... Fai piano! Dora aspetta sull'uscio riparandosi a malapena dalla pioggia sotto la pensilina. Giunge una macchina nera. Esita un po', poi prende coraggio e si precipita verso l'auto e sale. La vettura si allontana. Potevi almeno venirmi a prendere con l'ombrello, ma sei un gran maleducato. Dora, infuriata, non guarda in faccia il conducente. E poi se c'è una cosa che mi fa venire nervoso sono le cene dal prefetto. Ecco, lo sapevo, mi è venuto il singhiozzo. Tanto mi viene sempre quando mi fanno fare una cosa che non mi piace. Ma ancora non hai capito che per farmi contenta ci vuole così poco. Un bel gelato al cioccolato. Anche due. Una passeggiata insieme. E quello che succede, succede. E invece a te... Buongiorno, principessa! È incredibile. Lei mi deve spiegare. No, è lei che mi deve spiegare. Mi scusi, Mi fermo sotto un tetto e lei mi cade in braccio dal cielo. Cado dalla bicicletta e mi ritrovo in braccio a lei. Faccio un'ispezione a scuola e mi trovo ancora di nuovo lei davanti. E mi compare pure nei sogni. Ma mi vuole lasciare in pace? Ma guardi che lei ha preso proprio una brutta cotta per me, Vabbè, la capisco, vero? Però... Va bene, a questo punto cedo. Ha vinto lei. Dove andiamo, principessa? Andiamo al mare. Le piace il mare, eh? Sì, sì, mi piace. Ma mi aspettano davanti al teatro. Mi riporti indietro. Ah, vabbè. Andiamo indietro. Davanti al teatro. È venuto il singhiozzo anche a lei? Sì, purtroppo, ma a me mi viene sempre quando mi fanno fare delle cose che non voglio fare. E che vorrebbe fare? Io? Ma ci vuole poco per farmi contento. Un bel gelato al cioccolato, anche due, una bella passeggiata e poi quello che succede, succede. Che succede? Principessa, scusi, sa mica come si azionano i terzi cristalli? Oddio, freni, oddio! Principessa! Guido si ritrova con il volante in mano. Oh, si è rotto! Oh. Ma da quanto tempo fa guidare lei? Ma io da 10 minuti! Ah, pensavo meno! Non si chiude la capota, principessa! Non si apre lo sportello! Aspetta, siamo incastrati! Adesso usciamo, principessa! Ci penso io, l'importante è che lei non si bagni! Si gira sul sedile, prende un grande cuscino e infila la fodera nel volante dell'auto come a volerne fare un ombrello. Guido salta fuori dalla macchina, gira velocemente per portarsi accanto a Dora. L'aiuta a scendere. Nel movimento le si lacera il vestito. Ecco, venga. Principessa, c'è un lago, si bagna i piedi. Aspetti, principessa. In men che nulla, ecco. Prende dalla macchina un pesante rotolo di seta e lo fa scivolare ai piedi di lei giù per le scale. Sembra una passatoia reale. Prego, principessa. Dove siamo finiti? Ma ci siamo già stati insieme in questo posto. Io e lei? Quando? Ma non si ricorda. Quella notte che pioveva e io le feci un ombrello col cuscino. Una notte bellissima. E mi misi il volante sulla spalla, feci 2 giri di valse e quando mi fermai davanti a lei, lei mi baciò. Guido gira intorno a lei con un movimento di valzer. Nel suo buffo girotondo ha visto che Dora ha l'abito strappato fin sotto la vita. Principessa, lei è quelle salvette. Lei, lì per lì, non capisce. Dora cammina tenendosi il cuscino sul sedere. Venne dalle persone. Mio babbo era una di quelle. Oh, era capace di farmi fare qualsiasi cosa. Mi capiva, sapeva come prendermi. E io cadevo come una pera cotta. Gli dicevo sempre, sempre, sempre di sì. Ma allora, tutti questi tesori che lei nasconde, questa conchiglia, questo scrigno, c'è il sistema di aprirlo e farsi dire sempre di sì, eh? È più facile di quello che lei pensi. Basta avere la chiave giusta. E dove sarà questa chiave? Ah, lo sa il cielo. Si sta aprendo. Allora diceva che, insomma, questa chiave che lei dice sempre di sì, bisogna farla venire dal cielo, eh? Eh sì. Vabbè, io ci provo. Se la Madonna me la buttasse anche a me, non si sa mai, eh? Proviamo. Congiunge le mani. Maria, la chiave! Guido la prende al volo. È questa? Dora è sbalordita. Ma deve proprio andare a casa. È gelato, già, è gelato al cioccolato. Prendiamolo subito. No, ora no. E quando? Non lo so. Facciamo decidere al cielo anche questo. No, per carità. Lasci stare la Madonna, non la disturbi per un gelato al cioccolato. Dall'altra parte della strada, Guido vede il capitano, il quale gli si avvicina. Maria, manda qualcuno a dirci fra quanto tempo dobbiamo prendere questo gelato al cioccolato. Il capitano si ferma davanti ai due. 7 minuti. Dora è paralizzata. Il cuscino le scivola dalle mani e cade per terra. Ecco, questa è casa mia. Ci sono passato 1000 volte, mi sono sempre chiesto, ma chi ci abiterà? Sa che volevo fare il negozio proprio qua davanti. La libreria? Sì, così ci vediamo tutti i giorni. Allora, arrivederci. Lei è stato molto gentile con me. Adesso voglio di farmi un bel bagno caldo. Dimenticavo di dirle... Dica. Che ho una voglia di fare all'amore con lei che non si può immaginare. Ma questo non lo dirò mai a nessuno, soprattutto a lei. Mi dovrebbero torturare per farmelo dire. Dire cosa? Che ho voglia di fare l'amore con lei, ma non una volta sola, e tante volte. Ma lei non lo dirò mai. Solo se diventassi scemo le direi che farei all'amore anche ora, qui davanti a casa, per tutta la vita. Corra, se no si bagna, sta per ripiovere. Guido solleva il cappello per salutarla. È tutto bagnato? Vestito non è niente. In quel momento cappello, sì, passa il tappezziere in bicicletta. Mi ci vorrebbe un cappello asciutto, ma dove lo trovo? Com'era? Ah, già, è facile. Maria, manda qualcuno che dia un cappello asciutto a questo mio amico. Non finisce l'invocazione che il tappezziere si ferma davanti a Guido, gli leva il cappello dalla testa e lo scambia col suo. Bene, buonasera principessa, arrivederla. Guido si allontana ballando, lasciando Dora di sasso. L'amor, che l'amor, l'amor, che l'amor, l'amor. Grand Hotel, è sera. La festa non è cominciata. Guido attraversa veloce l'ambiente con un enorme uovo tra le mani quando incrocia Rodolfo. Cameriere, scusi, dov'è la toiletta? Diritto a sinistra. Rodolfo si allontana. Guido riabbassa l'uovo dietro al quale si era nascosto e prosegue. Zio, ecco l'uovo di struzzo! Oh, no. Ma che è, zio? Un dolce africano? Che sì, è? Sì, l'ultimo figlio della pasticceria, la torta di zio Pe, tutta fatta con un zabaione di uova di struzzo. Questo è l'impero, lo offriamo noi dall'albergo ai festeggiati. A proposito, ma che c'è, zio? Una festa di Dio, perché? Un fidanzamento ufficiale, una promessa di matrimonio. Va, dai, porti i carrelli. Ernesto, portami quella di struzzo! Ciao, adesso! Guido si affretta, ma si trova di nuovo davanti Rodolfo e un suo amico. Rodolfo si gira di colpo verso di lui. Cameriere? Prego. Guido si piega per nascondere la faccia. L'ufficio del direttore, per cortesia. È a destra, prima delle scale. Grazie. Accidenti, che inchino. Che grande terra. Guido vede i due che si allontanano, si rimette dritto e va via a gran velocità. Se adesso tu non ti alzi immediatamente, io giuro sulla memoria di tuo padre che non ti rivolgerò più la parola. Per tutta la vita. Nel frattempo, a casa di Dora. Ma mi gira la testa. A mille. Dora, bambina mia. Tu vuoi che tua madre viva murata qui, in questa casa? Perché se tu non vieni stasera, io non avrò più il coraggio di uscire per strada. Forse dovrei dormire un po'. Prima mi girava tutto a sinistra, adesso mi gira tutto a destra. Cosa sarà? Tornate fra un'oretta. Un'oretta. Dora, ci sono voluti 2 mesi di preparazione e ci è costato un occhio della testa. Adesso conto fino a 3. Se non ti alzi, ti porto via con la forza. 1, 2 e 3. E tira via di colpo le coperte. Dora, vestita di tutto punto, con le scarpe e la borsetta al braccio, si alza. Brava.